Estate, una villetta nei pressi di Windsor. Sara sta svuotando il posacenere, spolverando il soggiorno. È mattina. Indossa un vestito sobrio, arricciato sul davanti. Richard entra nella camera da letto dal bagno, va a prendere la sua cartella dall'armadio e si avvicina a Sara. Le dà un bacio sulla guancia. La guarda per un attimo, le sorride, lei gli sorride. Viene il tuo amante oggi? Mm-hmm. A che ora? Alle 3. Ah. E uscite o restate a casa? Oh, restiamo a casa. Ah. E non volevi andare a vedere quella mostra? Sì, ma oggi preferisco restare qui, con lui. Ah. Vabbè, io devo scappare. Resterà a lungo? Non lo so. Allora ci vediamo verso le 6. Alle 6. A più tardi. A più tardi. Ci vediamo dopo. Sì. Divertitevi. Sì. Richard apre la porta dell'ingresso ed esce. Lei continua a spolverare, le luci si dissolvono. Le luci si rialzano, è prima sera. Sara entra nel soggiorno. Indossa lo stesso vestito, ma con un paio di scarpe con tacchi a spillo molto alti. Si versa da bere e si siede sulla chaise lounge con una rivista. L'orologio batte le 6. Richard entra dalla porta d'ingresso, indossa un completo sobrio, lo stesso della mattina. Posa la cartella nell'ingresso ed entra nel soggiorno. Sara gli sorride e gli versa un whisky. Ciao. Ciao. Grazie. Ah. Stanco? Un po'. Molto traffico? No, anzi, piuttosto scorrevole. Meno male. Molto scorrevole. E che mi sembrava tu fossi un po' in ritardo. Davvero? Solo un po'. C'era il solito ingorgo sul ponte. Tu? Giornata piacevole? Sono stata in paese stamattina. Ah, davvero? Hai incontrato qualcuno? No, nessuno. Ho fatto colazione. In paese? Sì. Buono? Non c'è male. E il pomeriggio com'era? Piacevole? Oh, sì, meraviglioso. Il tuo amante è venuto allora? Certo. Gli hai fatto vedere la Malvarosa? La Malvarosa? Sì. No. Ah. Avrei dovuto? No. No. È solo che mi hai sempre detto che è un appassionato di giardinaggio. Sì, ma non fino a questo punto. Ah, e siete usciti o siete rimasti in casa? Siamo rimasti in casa. E non avete tirato su bene la veneziana? È già un po' storta. C'era molto sole oggi. Certo, quando sono uscito io già stava cominciando a calare, ma deve aver fatto molto caldo qui questo pomeriggio. Nella City si moriva. Davvero? Si soffocava. Credo che abbia fatto caldo un po' dappertutto. Erano parecchi gradi, credo. L'hanno detto alla radio? Mi pare di sì. Ne vuoi un altro prima di cena? Sì. Dunque, vedo che avete abbassato la veneziana. Sì, infatti. C'era una luce fortissima. Sì, infatti, era terribile. E il guaio di questa stanza è che il sole, quando c'è, batte diretto. Non siete andati in un'altra camera? No, siamo rimasti proprio qui. Deve essere stato accecante. Infatti, è per quello che abbiamo abbassato la veneziana. Sì, ma poi diventa così caldo quando abbassi la veneziana. Trovi? Magari no, magari è solo una mia impressione. Sì, forse. E tu cosa hai fatto questo pomeriggio? Una riunione lunghissima, del tutto inconcludente. Cena fredda stasera, ti secca? No, affatto. È che non ho avuto il tempo di cucinare oggi. A proposito, Sara, volevo chiederti una cosa. Cosa? Hai mai pensato che mentre tu passi il pomeriggio a tradirmi con il tuo amante, io lo passo seduto alla mia scrivania tra bilanci e progetti? Che domanda buffa. È solo curiosità. Non me l'avevi mai fatta prima. E ho sempre voluto fartela. E beh, certo che ci ho pensato. Ah, davvero? Mm-hmm. E con quale risultato? Che rende tutto più piccante. Davvero? Certo. Vuoi dire che quando sei con lui immagini me seduto alla scrivania mentre tento di far quadrare i bilanci? Solo in certi momenti? Beh, certo. Non sempre? Per forza. In certi momenti particolari? Per cui non vengo messo completamente da parte. No, affatto. Molto commovente, Sara. Come potrei dimenticarmi di te? Non mi sembra che sia così difficile per te. Ma io sono in casa tua. Sì, ma sei con un altro. Ma io amo te. Scusa? Io amo te, Richard. Beviamocene un altro. Beviamocene un altro. Che scarpe sono quelle? Stivali. Quelle scarpe che hai ai piedi hanno un tacco vertiginoso. Scusa, le tolgo. Hanno un tacco, sì, togliele. Togliele, non sono le scarpe adatte. Togliele, brava. Non sono le scarpe adatte per passare una serata in casa col proprio marito. O almeno credo. Dunque. Questo pomeriggio mi hai immaginato seduto in ufficio. Sì, certo. Senza esserne convinta, però. E come mai? È perché sapevo benissimo che non c'eri. Che eri dalla tua amante. Ah, davvero? Non hai fame? Ho mangiato molto a colazione. Quanto? Che magnifico tramonto. Mi sbaglio, Richard? Ma quale amante? Dai, Richard. No, è il termine che è ridicolo. Ridicolo? Ma perché? Io sono sincera con te, no? Perché non puoi esserlo anche tu con me? Ma perché io non ho un amante? Io frequento una puttana. Che è ben diverso. Una puttana? Sì, una puttana qualunque. Non vale nemmeno la pena parlarne. Mi viene comoda tra un treno e l'altro, tutto qua. E tu non prendi mai il treno, però. Vai sempre in macchina. Appunto, come se fosse una tazza di cioccolato al volo, mentre ti controllano olio e acqua. Che squallore. Ti sbagli. È che non mi aspettavo una missione così repentina. E perché no? In fondo non me lo avevi mai chiesto così brutalmente. La verità è verità. E la sincerità è fondamentale per un matrimonio sano, non trovi? Certo. Tu sei d'accordo? D'accordissimo. Tu sei assolutamente sincera con me, vero? Assolutamente. A proposito del tuo amante, e io devo seguire il tuo esempio. Grazie. Era un po' che lo sospettavo. Veramente? Sì. Percettiva. Ma francamente non riesco a credere che sia soltanto una... Come dici tu? Perché no? Ma perché non è possibile. Tu hai buon gusto, Richard. Beh, sì. Hai sempre dato molta importanza alla grazia e all'eleganza nelle donne. E allo spirito. E allo spirito, sì. E allo spirito, sì. Per un uomo lo spirito è molto importante. E lei è spiritosa. Sara, ma cosa c'entra? Come puoi chiedermi se una puttana è spiritosa? Che importanza può avere se lo è o non lo è? E quella è una puttana. Ha una funzione ben precisa che può soddisfarti oppure no. E lei ti soddisfa? Oggi mi soddisfa. Domani chissà. Trovo il tuo atteggiamento verso le donne alquanto allarmante, Richard. Ma perché, amore? Io non cerco mica una tua copia. Non cerco mica una donna da rispettare, da ammirare, da amare come te. Quello che voglio è, come dire, una dotata di una certa esperienza che sappia stimolare, svegliare la mia libidine, nient'altro. Mi dispiace che la tua storia sia così poco dignitosa. E la dignità risiede nel matrimonio. Priva di sensibilità. Anche la sensibilità vi risiede. Non cerco questi attributi, li trovo in te. E allora perché andare a cercare altrove? Cos'hai appena detto? Perché andare a cercare altrove? Ma cara, lo hai fatto tu? Perché non avrei dovuto farlo anch'io? Chi ha cominciato per primo? Tu. Non mi pare. E allora chi? Lei lo guarda con un lieve sorriso, le luci si dissolvono, è notte, chiaro di luna sul balcone. Richard torna in camera da letto, è in pigiama. Sara è in camicia da notte. C'è un letto matrimoniale. Sara si siede davanti allo specchio e si pettina. Richard? Pensi mai a me quando sei con lei? Un po'. Non molto, parliamo di te. Parli di me con lei. Ogni tanto, sì, la diverte. La diverte? Sì. E come le parli di me? Delicatamente. Parliamo di te come se avessimo tra le mani un vecchio carion, un carion antico, e lo tiriamo fuori nei preliminari, quando serve. Non posso dire che la cosa mi faccia molto piacere. Ah beh, certo, non è inteso come un tuo piacere, ma come un mio piacere. Sì, certo, capisco. Non ti bastano i tuoi pomeriggi, vuoi trarre piacere anche dai miei sollazzi. Oh, no, per carità. E allora perché tante domande? Beh, sei stato tu a cominciare, a farmi domande su cose che riguardano me. Di solito non ne fai mai. Curiosità puramente oggettiva. Ma non penserai mica che sono geloso, spero. Tesoro, so che non ti abbasseresti mai a tanto. Ah, oh, che Dio me ne guardi. E tu? Non sarai mica gelosa tu? Ma no. E poi da quello che mi racconti della tua signora mi sembra di cavarmela molto meglio di te. Può darsi. Che pace. Vieni qui alla finestra a vedere. Sai, mi domando che cosa accadrebbe se un giorno decidessi di tornare a casa prima del previsto. E cosa accadrebbe se io un giorno decidessi di seguirti? Sai cosa potremmo fare? Potremmo incontrarci tutti e tre per un paese, per un tè in paese. Andiamo a prenderci un tè in paese tutti e tre. Ma perché in paese? Perché non qui? Qui. Ma che buona idea! E il tuo amante poveraccio non è mai riuscito a vedere la notte da questa finestra, è vero? No, purtroppo è costretto ad andarsene sempre prima del tramonto. Ma non si annoia di tutti questi pomeriggi del cazzo, di questa eterna ora del tè. Io mi sarei già stufato a morte. L'immagine della teiera e del bricco del latte come unica libidine deve essere piuttosto deprimente. È uno che si adatta facilmente. E poi con la veneziana abbassata è come se fosse già notte. Anche questo è vero, sì. Cosa ne pensa di tuo marito? Ti rispetta. Mi commuove questa dichiarazione, stranamente. Sai, credo di capire perché ti piaccia così tanto. È molto dolce. Anche lui ha i suoi alti e bassi, naturalmente. Ah beh, certo, chi è che non ce l'ha? Ma devo dire che è molto affettuoso. Trasuda amore da tutti i pori. Ma che schifo. No. Ma solo da quelli, spero. Sì, ma in maniera completa. Ma che noia. Al contrario, è molto ironico. Ah, bene. Ti fa ridere, eh? Attenta a non farti sentire dai vicini. Non vogliamo pettegolezzi qui, eh. È bello vivere qui, lontano dalla strada, così isolati. Sì, sono d'accordo. È sposato, vero? Mm-hmm. Felicemente. E tu sei felice, vero? Sì. Non sei geloso? No, no. Bene. Perché penso che così ci sia un equilibrio perfetto, Richard. Dissolvenza. Luci del mattino. Sara sta infilando il suo negligé e comincia a rifare il letto. Tesoro. Tesoro? Tesoro! Dimmi. Credi che saranno pronte le cesoie stamattina? Le cosa? Le cesoie. No. Saranno pronte venerdì. Richard, non torni presto oggi, vero? No, oggi aspetta. Ma non vorrei dire che viene anche oggi il tuo amante. Dio mio, Sara, è stato qui ieri, ritorna anche oggi. Sì. Va bene, non tornerò presto. Andrò alla National Gallery. Bene. A più tardi. A più tardi. Ci vediamo dopo. Sì. Divertitevi. Dissolvenza. Pomeriggio. Sara scende nel soggiorno. Indossa un vestito nero attillato e scollato. All'improvviso si accorge che indossa le scarpe col tacco basso. Va rapidamente all'armadio e le cambia con quelle col tacco a spillo. Si guarda allo specchio, si liscia i fianchi, va alla finestra, abbassa la veneziana, la apre, poi la richiude finché non entra una sottile lama di luce. Suonano alla porta. Vado ad aprire. È il lattaio John. Panna? Sei molto in ritardo. Panna? No, grazie. E come mai? Ne ho ancora. Quanto ti devo? La signora Owen ha preso 3 vasetti di doppia panna. Quanto ti devo? Non è ancora sabato. Grazie. Allora niente panna. La signora Owen ha preso 3 vasetti. Grazie. Chiude la porta. Va in cucina col latte. Torna con il carrello del tè. Aggiusta velocemente i fiori del vaso. Si siede sulla chaise lounge. Incrocia le gambe. Le rimette dritte, poi le stende, si liscia le calze sotto alla gonna e suona alla porta. Va ad aprire tirandosi giù la gonna. Apre la porta. Ciao, Max. Entra Richard. Indossa una giacca di camoscio senza cravatta. Entra nel soggiorno e rimane in piedi. Lei chiude la porta. Lui la guarda e poi si avvia verso l'armadio dell'ingresso e tira fuori dei bongo. Finché lei non si siede, lui rimane immobile coi bongo in mano. Appena lei si siede, lui comincia a battere sui bongo. Con l'indice, lei accarezza i bongo vicino alla mano di lui. Lei gli graffia il dorso della mano con violenza, un dito dopo l'altro, tamburellando, raggiunge le dita di lui e si ferma. Prima con un dito, poi anche con le altre due dita, lei lo graffia tra le dita. Le gambe di lui si irrigidiscono. La mano di Richard si allaccia a quella di lei, la mano di Sara cerca di liberarsi dalla stretta. Le due mani si intrecciano, battendo selvaggiamente sui bongo. Immobilità! Lei si alza e va verso il tavolo degli alcolici, si accende una sigaretta e si avvia verso la finestra. Lui posa i bongo sulla sedia bassa e prende una sigaretta e la raggiunge alle spalle. Mi scusi ad accendere. Ha per caso da accendere? Mi lasci in pace. Perché? Le ho solo chiesto se ha da accendere. Mi scusi. Non mi piace essere seguita. Non mi faccia accendere, non la importunerò più. Non le chiedo altro. Se ne vada, per favore, aspetto qualcuno. Chi? Mio marito. Ma perché fa tanto la timida, eh? Dove ce l'ha l'accendino? Ce l'ha qui? Dov'è? Qui? Qua giù? Dove? Ma cosa qui? Vuole da me? Muoio dalla voglia di fumare. Ma io sto aspettando mio marito. Mi faccia accendere con la sua, la prego. La prego, signorina. Tutto bene, signorina? Sono arrivato appena in tempo per liberarla da quel signore. Non le avrà fatto mica del male, spero. È davvero gentile da parte sua. No, sto benissimo, grazie. Fortuna che passavo di qui. È incredibile che succedano cose del genere in un parco così bello. Sì, davvero. Per fortuna non le è successo niente. Non saprò mai ringraziarla abbastanza. Le sono davvero riconoscente, sul serio. Ma perché non si siede un attimo? Così si calma. Ma io sono calma. Calmissima. Ma sì, grazie, lei è così gentile. E dove vogliamo sederci? Beh, non possiamo stare qui fuori. Piove. Ah. Che ne dice del casotto del custode? Ma crede che possiamo? Non dirà niente il custode. Ma signorina, sono io il custode. Ah. Non avrei mai pensato di poter incontrare qualcuno di così gentile. Certo, che trattare così una donna giovane come lei è davvero vergognoso. Poi lei sembra una persona così saggia, così sensibile. Certo che lo sono. Così dolce. Forse non è successo a caso. In che senso? Ci ha permesso di incontrarci, di conoscerci. Non la seguo. Ah, davvero? Senta, scusi, ma io sono sposato. Lei è così dolce, non si preoccupi. No, davvero, mia moglie mi starà aspettando. E sua moglie non le permette di parlare con ragazze che non conosce? No. Ma com'è noioso lei, com'è freddo. E mi dispiace. Voi uomini siete tutti uguali. Mi dia una sigaretta. Ma non ci penso nemmeno. Come hai detto? Vieni qui, Dolores. No. Vieni a chi, Dolores. No, no, no, no, no, Max, non ci casco più. Una volta va bene, Max, ma due no. Vieni, Dolores. Addio. Non puoi andartene, tesoro. La porta è chiusa a chiave. No. E siamo soli. Sei in trappola. In trappola? Sono una donna sposata, io. Non può trattarmi così. Mary, è l'ora del tè. Oh, Max. Le luci si dissolvono, si riaccendono. Max è seduto sulla sedia. Sara sta versando il tè. Max. Cosa? Tesoro, cosa c'è? Sei così pensieroso. No. Ma sì che lo sei, ti conosco. Dov'è tuo marito? Mio marito? E non lo sai dov'è? Dove? In ufficio. Poveraccio. Lavora tutto il giorno. Chissà che tipo è. Oh, Max. No, chissà se andremo d'accordo. Chissà se, sai, se ci capiremmo. Non credo proprio. E perché? Avete così poco in comune. Ah, sì. È un tipo molto compiacente, però. È al corrente dei nostri pomeriggi, no? Certo. Sono anni che sa. Perché così compiacente? Ma dico, perché ti viene improvvisamente voglia di parlare di lui? Che senso ha? E poi di solito non è un argomento su cui ti piace soffermarti. Perché così compiacente? Dai, smettila. Ti ho fatto una domanda. Perché non gliene frega niente. Ne sei sicura? Beh, a me comincia a dare fastidio. Come hai detto? Che a me comincia a darmi fastidio. Dobbiamo smettere. Non può andare avanti così. Stai parlando seriamente? Non può andare avanti così. Stai scherzando? No, no, dico sul serio. Ma perché? Per via di mio marito. Spero che non sia per lui, perché sarebbe ma il colmo. No, no, tuo marito non c'entra nulla. Si tratta di mia moglie. Tua moglie? Mia moglie. Non posso continuare a tradirla così. Max. Sono anni che la tradisco e non ce la faccio più, è insopportabile. Ma senti, tesoro. Non mi toccare. Come hai detto? Mi hai sentito. Ma tua moglie è al corrente, no? Lei ha detto tutto di noi, lo sa da sempre. No. Mia moglie non sa niente. Mia moglie pensa che io frequenti una puttana. Una puttana ogni tanto e basta, non sa nient'altro. Va bene, ma ragiona un attimo, amore. Comunque sia, a lei non importa, non è così? Ma gliene importerebbe come se sapesse la verità? Ma quale verità? Di cosa parli? Ma gliene importerebbe se sapesse che io ho un'amante fissa, che vedo 2-3 volte la settimana e che per di più è una donna piena di grazia, di eleganza, di fantasia, di spirito. Ah, sì, sì, su questo. È una storia che va avanti da anni. Ma a lei non importa. Cioè, anche se sapesse, non le importerebbe, perché è felice. È felice così. Perché non la pianti con tutte queste fesserie, eh? Stai facendo di tutto per rovinare il pomeriggio. Tesoro, non penserai mica di poter fare con tua moglie quello che fai con me. E poi mio marito apprezza molto il fatto che... Ma come fa a sopportare tutto questo tuo marito? Come fa a sopportarlo? Non sente il mio odore quando torna la sera. Cosa dice? Deve essere un pazzo. Che ore sono adesso? Le 4:30. Lui è lì, seduto nel suo ufficio e sa perfettamente quello che sta accadendo qui ora. Cosa prova? Come fa a sopportarlo? Max. Come fa? È felice per me. Gli sto bene così. Mi capisce. Forse dovrei incontrarlo. E farci due chiacchiere. Sei ubriaco? No, no, forse dovrei fare proprio così. Dopotutto è un uomo, come me. Siamo uomini tutti e due. Tu no, tu sei una maledetta donna. E smettila! Cosa ti prende? Cosa ti succede? Ti prego, smettila. Che gioco è questo? Gioco? Io non gioco mai. Ah no? E invece sì. Sì che giochi. E di solito i tuoi giochi mi piacciono molto. E questo è il mio ultimo gioco. Ma perché? Per via dei bambini. Cosa? I bambini. Devo pensare ai bambini. Ma quali bambini, Max? I bambini, i miei. Quelli miei e di mia moglie. Tra poco finiscono il college e io devo pensare a loro. D'accordo. Voglio dirti una cosa all'orecchio, Max. No. Siediti, Max. Ascoltami. Sara, lascia che ti parli all'orecchio, posso? Per favore, Max. È l'ora dei sussurri. No, l'ora dei sussurri. Prima era l'ora del tè, vero? Vero? Sì. E ora è l'ora dei sussurri. No, no, e a te piace quando ti parlo all'orecchio? No, a sì. te piace quando ti amo sottovoce? No, no, no. Ascoltami. Sì. Non devi preoccuparti né di mogli no. e né di marito. Nulla di tutto ciò è stupido, molto molto no, stupido no, Sara. Quello che conta è che ci sei tu qui ora, qui con me, è che siamo insieme. Conta solo questo, hai capito? No, prendi il tè con me. Prendi, mi sussurri qualcosa no, all'orecchio no, anche tu. Così siamo fatti, così Max no. siamo noi no, no, no. Amami Max. Tu sei troppo magra. E questo è il vero problema, sai? Passerei soprattutto se non fosse per questo. Sei troppo magra, eh? Io magra? Ma non essere ridicolo. Non sono ridicolo. Ma come fai a dire che io sono troppo magra? Ma ogni mossa mi ritrovo con le tue ossa conficcate da qualche parte. Non ne posso più delle tue ossa. Ma cosa dici? Ti sto dicendo che sei troppo magra. Ma se sono grassa? Guardami, sono una cicciona. Mi hai sempre detto anche tu che ero una cicciona. Una volta eri cicciona. Ora non lo sei più. Guardami. Lo faccio. E non lo sei abbastanza. Da nessuna parte. Conosci i miei gusti. A me piacciono le donne enormi. Dei tori con le mammelle. Grossi tori con mammelle. Vuoi dire delle vacche? No, non voglio dire delle vacche. Voglio dire degli enormi, voluminosi, grossi, tori, femminili, con mammelle. Una volta, qualche anno fa, tu somigliavi vagamente a una di quelle bestie bellissime ah, per l'altro. Ah, sì, grazie tante. Ma ora, sinceramente, in confronto al mio ideale, sei pelle e ossa. Come scherzo non c'è male. Non sto scherzando. Max esce. Lei lo guarda andarsene. Si gira, va lentamente verso i bongo, li raccoglie e li rimette nell'armadio. Si gira, guarda la chaise lounge per un attimo. Si avvia lentamente verso la camera da letto e si siede in fondo al letto. Le luci si dissolvono, si riaccendono. Sera, l'orologio batte le 6. Richard entra dalla porta d'ingresso, indossa il suo completo sobrio, mette la cartella nell'armadio, la bombetta sul gancio, si guarda attorno, si versa da bere. Sara entra in camera da letto dal bagno e indossa un vestito sobrio. Ciao. Ciao. Guardi il tramonto. Bevi qualcosa? Non subito, grazie. Che riunione noiosa. È durata tutto il giorno, è stata spossante. Un buon lavoro però, qualche risultato l'abbiamo ottenuto. Scusa se ho fatto un po' tardi, ho dovuto bere una cosa con due o tre colleghi che venivano dall'estero, tutta brava gente. Tu come stai? Benissimo. Bene. Sembri un po' giù. Qualcosa non va? No. Com'è andata la tua giornata? Non c'è male. Non bene. Così così. Oh. Mi dispiace. Che bello essere a casa. Ah, non sai cosa vuol dire dopo una giornata di lavoro. È venuto il tuo amante. Sara. Come? Ah, scusa. Stavo pensando ad altro. È venuto il tuo amante. Ah, sì, certo. Era in forma? Ho un mal di testa. Non era in forma. Abbiamo tutti le nostre giornate, no? Anche lui. Io credevo che agli amanti non succedessero questo genere di cose. Cioè, se io dovessi assumere il ruolo dell'amante, se fossi disposto ad accettare, diciamo per assurdo, quel mestiere, beh, ci rinuncerei subito se non mi sentissi capace di assolverlo in maniera adeguata, di rispettare gli obblighi del caso. Che paroloni! Vuoi che usi parole più corte? No, grazie tante. Mi dispiace che tu abbia passato una brutta giornata. Non ti preoccupare. Magari, prima o poi, le cose miglioreranno. Magari. Speriamo. Ciò nonostante ti trovo bellissima. Grazie. Sì, ti trovo bellissima. Sono molto fiero quando esco con te. Quando andiamo fuori a cena, a teatro. Mi fa piacere. Quando andiamo al circolo. Sì, al circolo. Sì, sono fiero di camminare al tuo fianco, con mia moglie al braccio. Vederti sorridere, ridere, camminare, parlare, piegarti, star ferma. Ascoltare la tua proprietà di linguaggio. L'uso delicato che fai delle espressioni moderne, le adoperi così sottilmente. Sì. Sentire l'invidia degli altri, il loro tentare, con le buone o con le cattive, di entrare nelle tue grazie, e l'eleganza austera che adotti per deluderli poi. E il tutto sapendo che sei mia moglie. È fonte di grande soddisfazione per me. Cosa c'è per cena? Non ci ho pensato. Ah, come mai? L'idea di cucinare mi stanca. Preferisco non pensarci. Ah beh, peccato, perché stasera io ho fame. Di, non ti aspetterei mica che adesso mi metto anche a cucinare dopo un'intera giornata passata nella City a trattare di argomenti di alta finanza. Si potrebbe persino insinuare che tu stia trascurando i tuoi doveri di moglie. Oh, mamma! Ti dirò che me lo aspettavo prima o poi. Come sta la tua puttana? Benissimo, grazie. Ingrassata o dimagrita? Come hai detto? È ingrassata o dimagrita? Diventa ogni giorno più magra. Sarai deluso? Ma per niente. A me piacciono le donne magre. Pensavo il contrario. Davvero? E cosa te lo fa pensare? La tua non voglia di cucinare è dovuta al tipo di vita che stai conducendo da un po' di tempo a questa parte, non credi? Trovi? Ne sono convinto. Forse perché ti trascuro. Ti senti trascurata? Non so. Sì, penso di sì. Sai, mentre mi trovavo nell'ingorgo sul ponte, ho preso una decisione. Ah sì? E quale? Che tutto questo deve smettere. Cosa? Questa tua depravazione, la tua vita dissoluta, la piega di lussuria illecita che hai intrapreso. Davvero? Sì, su questo la mia decisione è irrevocabile. Vuoi del prosciutto? Mi hai capito? No, c'è qualcosa di freddo nel frigo. Di troppo freddo sicuramente. Senti, questa è casa mia e da oggi ti proibisco di ricevere il tuo amante sotto il mio tetto, a qualsiasi ora del giorno, hai capito? Ti preparo un'insalata. Vuoi bere qualcosa? Sì, grazie. Cosa vuoi bere? Lo sai cosa bevo? Siamo sposati da 10 anni. Da 10 anni, sì. È strano che ci abbia messo 10 anni a capire l'ignominia umiliante della mia posizione. Non proprio da 10 anni. E non ho un amante da 10 anni, eh. Non è venuto con noi in luna di miele. Ma è irrilevante, Sara. La realtà è che io sono un marito che ha permesso all'amante di sua moglie di entrare e uscire da casa mia tutti i pomeriggi che voleva. Sono stato troppo compiacente, non sei d'accordo? Ma certo, tu sei terribilmente compiacente. No, e ora mi farai la cortesia di porgergli i miei omaggi per lettera, se vuoi, pregandolo di sospendere le sue visite a partire dal 12 del corrente mese. Ma come puoi parlare così? Perché proprio oggi, così, all'improvviso? Hai passato una brutta giornata in ufficio. Tutta quella gente dall'estero, è tutto così faticoso. Ma è stupido, proprio stupido parlare in questo modo. Io sono qui per te. E tu hai sempre considerato importanti questi pomeriggi. Li hai sempre capiti. E la comprensione è così rara, così preziosa. Pensi che sia piacevole sapere che la propria moglie ti tradisce regolarmente 2 o 3 volte la settimana? Richard. È insopportabile. È diventato insopportabile. Non sono più disposto a tollerarlo. Amore, Richard, ti prego. Ma ti prego cosa? Senti, lo vuoi un consiglio? Quale? Portatelo fuori, nei campi. Trovatevi un fossato o una discarica, un letamaio. Cosa ne dici? Compratevi una canoa e trovatevi uno stagno, quello che volete, dove volete, ma non nel mio soggiorno. Mi dispiace, ma non è possibile. Ah, e perché? Perché ti dico che non è possibile. Beh, se ci tieni tanto al tuo amante, è l'unica soluzione realistica, visto che da adesso in poi non gli è più concesso di entrare qui. Io lo dico per te, tesoro, perché ti amo, questo lo capisci, vero? Se lo trovo in questa casa, gli spacco i denti. Tu sei pazzo. Gli spacco la testa. E tu che te ne fai della tua lurida puttana? L'ho liquidata. Ah, davvero? E perché? Era troppo magra. Ma a te piacevano. Hai detto che ti piacevano, Richard. Ma tu mi ami? Certo. Sì, mi ami. E lui per te non conta. Perché tu lo capisci, non è vero? Sai meglio di me, tesoro, che va bene così. Vanno bene così le sere, i pomeriggi. Vero? E senti, prima scherzavo. Ho cucinato, è pronto. Boeuf bourguignon. E domani ti faccio il pollo in fricassea. Ti va? Adultera. Non puoi parlarmi così. Lo sai che non puoi. Dove vuoi arrivare? Senti, che cos'è questo? È un po' che lo avevo notato. Che cos'è? Che cos'è? Non lo toccare. Ma è in casa mia. O è mio o è tuo. O è di qualcun altro. Non è niente. L'ho preso a una vendita di beneficenza. Niente, rimettilo a posto. Niente. Questo? Un bongo nel mio armadio. Rimettilo a posto. Ma non è che ha a che fare con i tuoi pomeriggi illeciti? Ma no, perché dovrebbe? È stato usato. È stato usato, è vero. Si vede. Ma cosa vuoi vedere tu? Dammelo. Ma come lo usa lui? Come lo usi tu? Ci giocate mentre sono in ufficio? Qual è la loro funzione? Non lo userete mica solo come trofeo? Che cosa ci fate? Non hai diritto di farmi domande. Nessun diritto. Era il nostro accordo. Niente domande. Smettila. Smettila. Voglio sapere. Smettila. Li suonate tutti e due? Lo suona. Ah, ma lo suonate insieme. Lo suonate insieme. Idiota. Credi che lui sia l'unico, eh? Pensi che venga qui solo lui, eh? Ma non essere ridicolo. Ne vengono anche altri, molti altri, sempre, tutti i giorni, tutti i pomeriggi, sempre, quando meno ve lo immaginate, nessuno dei due. Preparo fragole quando le trovo, con panna, per degli sconosciuti, dei perfetti sconosciuti, ma non sconosciuti per me, almeno finché rimangono qui. Vengono a vedere la Malvarosa e si fermano per il tè. Tutti i santi giorni. Ah, davvero? Cosa fai? Fate così? Eh? Così? Che divertente! Scusi, ha da accendere? No. Ha per caso da accendere? No. Su, non faccia la guastafeste. Suo marito non avrà niente da ridire se mi fa accendere. È pallida! Come mai è così pallida? Una bella ragazza come lei! Non fare così! Sei in trappola. Siamo soli. Ho chiuso tutto a chiave. Non lo fare. Non devi. Non devi! Lui non dirà niente. Nessuno sa niente. Nessuno può sentirci. Nessuno sa che siamo qui. E su, mi faccia accendere. Tanto non puoi scappare, tesoro. Sei in trappola. Sono in trappola. Cosa dirà mio marito? Mi sta aspettando, mi aspetta. E io non posso uscire. Sono in trappola. Lei non ha nessun diritto di trattare una donna sposata in questo modo. Pensi a quello che fa. Ma lei è molto sfacciato, davvero, davvero sfacciato. Ma mio marito capirà. Mio marito capisce. Venga qui giù. Le voglio dire una cosa. Pensi al mio matrimonio, a mio marito che mi adora. Venga qui vicino che le parlo all'orecchio. Glielo dico all'orecchio. È l'ora dei sussurri. È un po' tardi per il tè, ma a me va bene lo stesso. Come sei dolce. Non ero mai stata con te dopo il tramonto. Mio marito ha una riunione che finirà molto tardi. Sei diverso. Cos'è questo strano completo e questa cravatta? Di solito non ti vesti così. Togliti la giacca. Vuoi che mi cambi anch'io? Vuoi che mi metta i miei soliti vestiti? Mi cambierò per te, tesoro. Vuoi? Ti farebbe piacere. Sì, cambiati. cambiati il vestito. Mia adorabile